Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Non potete pretendere che una banca finanzi il progetto di un liceale. Sarà nato in Italia Steve Jobs, non gli davano manco il mutuo per la prima casa. Riprenditi il posto che meriti, tu sei più bello di loro. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Il trailer del film The Startup, tratto dalla storia vera di Matteo Achilli, imprenditore innovativo, fondatore di Egomnia, riporta in primo piano le inevitabili difficoltà e i troppi ostacoli ancora presenti sulla strada dei giovani italiani che provano a lanciarsi nel mondo dell'impresa e con idee originali, in cerca imprescindibile di capitali. L'università oggi è al centro di Giovani Talenti con una storia che ci riporta in Germania per tornare a raccontare i nostri cervelli in fuga. All'emigrazione italiana in Germania riserveremo un focus specifico anche nel nostro notiziario con lo studio pubblicato di recente di un ricercatore italiano. E non perdetevi l'appuntamento con Expats che questa settimana ci trasporterà negli Stati Uniti, dove vi racconteremo una radio nata anche per promuovere i nostri connazionali d'America. Infine affrettatevi, ancora solo un mese di tempo per mandare i vostri racconti a Giovani Talenti in Europa e staccare 3 biglietti per l'Europarlamento di Strasburgo. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright di Janet Yellen, presidente della Federal Reserve americana. Dobbiamo preparare meglio i giovani al mercato del lavoro, l'istruzione è la chiave per sfuggire alla povertà, una trappola che rischia di condizionare l'intera vita. Meditante, gente, meditate e ricordate che siamo uno dei paesi meno istruiti d'Europa. Per diventare autonomi i giovani italiani ci mettono sempre più tempo. Se un giovane di 20 anni nel 2004 impiegava 10 anni per costruirsi una vita autonoma, nel 2020 ne impiegherà 18 e nel 2030 addirittura 28. Diventerebbe in sostanza grande a 50 anni. Lo si legge in uno studio della Fondazione Visentini. Per la stessa fondazione sarebbe necessario un contributo solidaristico da parte della generazione più matura che gode delle pensioni più generose. Questo, aggiunge lo studio, sarebbe doveroso non solo sotto il profilo etico, ma anche sotto quello sociale ed economico. Nella ricerca si evidenzia che l'Italia è penultima in Europa per equità intergenerazionale, facendo meglio solo della Grecia. Penoso, vero? Secondo me il problema principale è un po' l'atteggiamento che tendiamo ad avere, un po' la tendenza a lamentarsi, a prescindere. E poi la resistenza al cambiamento. Comunque in ogni caso ti scontri con un muro di resistenza al cambiamento. Geralo Mazzi, 38 anni, una postdoc a Colonia in Germania. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura le ultime stime CNA sulle migrazioni degli italiani all'estero. Secondo proiezioni elaborate sulla base di dati Istat ed Eurostat, la CNA stima in 115.000 gli italiani emigrati lo scorso anno. Si tratterebbe di un nuovo record. Tutte le fasce d'età mostrano crescita a doppia cifra tra il 2008 e il 2014, ma a sorpresa la crescita maggiore si è registrata tra i 40 e 49 anni, più 84% in 6 anni. In termini assoluti sono però ancora gli under 40 a farla da padrone tra i cittadini in età lavorativa ed emigrati. Ammontano infatti ai 2/3 degli espatriati. Per la CNA crescono Cina e Sud America tra le destinazioni di emigrazione. Il 31% degli espatriati è laureato, il doppio della media nazionale. E ora gli ultimi dati sugli italiani espatriati in Germania. Una recente ricerca ha fatto il punto della situazione con un occhio anche al resto del mondo. Ce ne parla Domenico Gabrielli, ricercatore Istat. Siamo ritornati in termini di flussi migratori verso la Germania, parlo in primo luogo dei cittadini italiani, ai livelli della prima metà degli anni Ottanta, quindi siamo all'incirca sui 50.000 immigrati in Germania nell'ultimo anno disponibile nel 2015. Spostando il quadro dalla Germania al resto dei paesi, lei ha approfondito lo studio anche alla nostra emigrazione più generale. L'Italia è un paese sempre meno di immigrazione e sempre più di immigrazione. Bastano due cifre, gli immigrati stranieri nel 2007 erano 490.000, nel 2015 sono dimezzati, sono 250.000. Gli emigrati italiani erano 36.000 nel 2007, quindi l'anno d'inizio della crisi economica, sono più di 100.000 nel 2015. Interessa soprattutto le classi d'età giovanili, per esempio in Germania nella classe d'età 19-32 ci sono il 50% degli immigrati. Problema Brexit. Per venire incontro alle preoccupazioni delle centinaia di migliaia di italiani residenti nel Regno Unito sulle possibili conseguenze per il proprio status futuro, la nostra ambasciata ha attivato uno speciale servizio d'assistenza online dedicato. L'iniziativa prevede la nascita di un help desk e di sezioni dedicate sul sito. L'email di riferimento è londra.brexit@esteri.it. Per il riconoscimento delle competenze acquisite durante un progetto Erasmus, ora basta un click. È online il nuovo sito europeo dedicato allo strumento di certificazione Youth Pass, youthpass.eu. Si chiama Recognition, la nuova sezione del sito che approfondisce il tema del riconoscimento delle competenze non formali e del lavoro giovanile. E c'è pure l'Erasmus per gli imprenditori, che consente a giovani imprenditori di fare un'esperienza all'estero. Il bando per il prossimo biennio prevede 16 borse di studio oltre confine per coprire un soggiorno che può andare da 1 a 6 mesi. Prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 13 di maggio e che da questa edizione, ve lo ricordiamo, vi chiede di raccontare la vostra Europa. Nelle prossime settimane sceglieremo 3 di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare dovrete avere tra i 18 e i 35 anni. E dovrete inviare da ora fino alla mezzanotte di venerdì prossimo una email a concorsoeuropa@radio24.it contenente un racconto di massimo 1500 caratteri, spazi inclusi. Raccontateci l'Europa che avete vissuto o che intendete vivere. Inviateci i vostri personali racconti sulle esperienze di studio, stage o lavoro nel vecchio continente. Raccontateci quanto vi hanno fatto crescere, quanto avete imparato, quanto avete potuto allargare i vostri orizzonti. E se invece dovete ancora fare esperienze di questo tipo, beh, allora raccontateci come ve li immaginate un periodo di studio o lavoro in Europa e perché, soprattutto, vorreste farlo. Inviateci le vostre proposte con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e rilanciate l'iniziativa su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione però, potete scriverci solo fino alla mezzanotte di venerdì e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave imprescindibile per poter partecipare. Quella di questa settimana è Europa 15. Ripeto, Europa 15. I 3 racconti giudicati migliori si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo a ottobre. Vi ricordo ancora la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info e i contatti in regolamento su www.radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Germania, primo paese di emigrazione degli italiani, anche di quelli della cosiddetta nuova emigrazione professionale. Nome. Vera. Cognome. Lomazzi. Età. 38. Città di origine. Brescia. Studi. Dottorato in sociologia e metodologia della ricerca sociale. Anno in cui hai lasciato l'Italia. 2015. Per andare dove? Prima ad Aberdeen in Scozia, poi Colonia. Perché? Per fare il mio lavoro con maggiore stabilità. Qual è il lavoro svolge attualmente? Ricercatrice, mi occupo di metodologia della ricerca e studio i valori degli europei. Dove? A Gesis, il Leibniz Institute for the Social Sciences a Colonia. Tornerai? Chissà. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember when we used to have so much fun? I used to cry sometimes. Those days are gone. Do you remember? Non sarebbe corretto affermare che in Italia per me non c'erano occasioni. Lavoro da fare ce n'era, ma limitato nel tempo, frammentato in progetti molto diversi tra loro e soprattutto in un tempo in cui tutto è sospeso, sia per la durata della gavetta, sia per la direzione in cui si andava. Vera? Così c'è scritto a giovanitalenti@radio24.it. Concordi allora con me nel dire che questa è una delle migliori definizioni della precarietà di cui oggi parlano tutti in Italia? Significa questo essere precario alla fine? Sì, probabilmente sì, però sfuggire a questa precarietà non per forza coincide con la ricerca assoluta del posto fisso, ma piuttosto con la ricerca della continuità nello svolgere la propria professione, ma questo chiaramente richiederebbe un mercato del lavoro dinamico. Ripercorriamo velocemente la tua storia. Dopo il diploma inizi subito a lavorare, ma dopo qualche anno ti rendi conto di non essere soddisfatta e riprendi a studiare. In cosa ti iscrivi e dove? Mi iscrivo a Scienze della Formazione nella sede di Brescia dell'Università Cattolica. Che voto dai al tipo di formazione accademica ricevuta in Italia, soprattutto se confrontata con l'ambito internazionale? Direi 7,5, soprattutto per le solide basi di conoscenza e lo sviluppo del pensiero critico e anche l'opportunità di studiare con delle borse di studio che altrimenti per me sarebbe stato impossibile. Quello che manca arrivare a 10 forse proprio la poca internazionalizzazione sia dei percorsi universitari e anche poi questo poi si riflette anche nella preparazione della competizione internazionale contro cui poi comunque dobbiamo confrontarci. Nel 2009, una volta laureata, prosegui gli studi con un dottorato in sociologia e metodologia della ricerca sociale. Perché la scelta, poi non molto semplice, di proseguire in accademia? Ma guarda, proprio perché era una situazione comunque di crisi generale e quindi difficile per difficile, ho pensato di investire su di me e fare quello che più mi piaceva. Tra l'altro collaboravi già in attività di ricerca e formazione sia in università che presso realtà del terzo settore. La svolta arriva però col dottorato, che ti porta a fare esperienze sia in Olanda sia in Germania. Che mondo ti si apre professionalmente? Perché sono stati periodi decisivi per te? Ma guarda, perché durante queste esperienze sono entrata in contatto con colleghi e istituzioni molto più veloci di me, più preparati, più interconnessi, più competenti rispetto a quello che io ero in quel momento. E quindi in questo confronto, a tratti frustrante ma anche stimolante, ho deciso che volevo diventare così anch'io. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Vera Lomazzi, 38enne ricercatrice postdoc a Colonia in Germania. Vera lascia l'Italia non tanto per la penuria di opportunità di lavoro nella penisola, quanto per la loro sostanziale indeterminatezza e precarietà. All'estero ha trovato proposte più concrete e di prospettiva. Ora vive da perfetta pendolare europea e ci racconta come ce l'ha fatta. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Tra il 2014 e il 2015 lavori in Libano nell'ambito di progetti finanziati dall'UNICEF e qui per paradosso ricevi la tua prima offerta di lavoro concreta. In cosa si differenziava da quelle precedenti in Italia? Ma proprio perché era concreta, quindi non nel periodo ipotetico del se, forse, aspettiamo, vediamo. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Due anni fa arriva finalmente il salto di qualità che ti libera dal mondo delle collaborazioni occasionali italiane, un salto che ti porta in Scozia. Come ci approdi? Ho visto l'annuncio su Twitter e dato che in Italia ero ancora in questa situazione di limbo ho pensato di candidarmi, così ho mandato la mia candidatura. Dopo una selezione per titoli sono stata contattata per fare un colloquio via Skype con tre esaminatori e dopo qualche settimana ero là. E cosa vai a fare ad Aberdeen? Ad Aberdeen sono stata assunta per lavorare a un progetto finanziato dalla Commissione europea sulle trasformazioni politiche, economiche e sociali in 7 paesi arabi a seguito delle cosiddette primavere arabe, insomma per fare la ricercatrice. Il tuo lavoro, insomma. E un anno fa rifiuti l'estensione del contratto in Scozia, soprattutto per motivi familiari, considerata anche la lontananza da casa, punti su una posizione a Colonia in Germania, avevi adocchiato un posto al prestigioso Leibniz Institute, perché no, ti dici, senza però aspettarti troppo, abituata come eri ai miraggi dell'università italiana. E invece, vogliamo dire come va a finire? Va a finire bene, perché appunto ho provato comunque, anche diciamo che i miei timori erano un po' per la competizione internazionale, che so essere abbastanza agguerrita, e invece poi diciamo che dopo una selezione per titoli mi hanno contattato per venire a fare un colloquio insieme ad altri due potenziali candidati, dopodiché la sera stessa mi hanno ricontattato per dirmi che avevano scelto me. Attualmente quale posizione ricopri? Sono Research Fellow, che corrisponde più o meno al nostro ricercatore italiano, che sarebbe una posizione che non so quanti anni avrei dovuto aspettare in Italia per poter fare. Lo immaginiamo. 10 mesi dopo, qual è il tuo primo bilancio in termini di qualità della vita, lavoro e sviluppo professionale in Germania? Ma sicuramente è positivo, innanzitutto per la possibilità di svolgere il mio lavoro mettendo a disposizione le mie competenze e in un orizzonte di continuo sviluppo e di crescita anche personale. La qualità della vita è sicuramente migliorata proprio perché c'è un'idea maggiore di futuro, ma anche il tutto in un contesto sociale dove è anche valorizzato il dottorato, mentre in Italia tante persone non sanno neanche cosa sia. Questo è il problema. In Germania c'è un'idea anche molto forte della meritocrazia che per te si traduce nel flusso di fondi per il tuo lavoro. Come funziona? Faccio un esempio, per esempio il mio istituto, che è finanziato principalmente dal Ministero della Ricerca e dell'Istruzione tedesco, ogni 3 anni è sottoposto a una valutazione e se non si raggiungono determinati standard questi fondi rischiano di chiudere. Questo si traduce poi anche in tutto un sistema interno dove ognuno è supportato e incoraggiato a migliorare tramite formazione continua o anche la costruzione di network interni ed esterni, e quindi c'è proprio un accompagnamento verso un miglioramento che sia individuale ma poi a beneficio di tutti. E c'è la nostra domanda di rito, Vera, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Secondo me il problema principale è un po' l'atteggiamento che tendiamo ad avere, un po' la tendenza a lamentarsi a prescindere anziché mettersi magari in gioco in prima persona. e poi la resistenza al cambiamento, quindi non importa se si tratta di una nuova modalità manageriale, piuttosto che uno stile musicale nuovo, piuttosto che una nuova strategia di gioco per una squadra, oppure un nuovo approccio alla ricerca, comunque in ogni caso ti scontri con un muro di resistenza al cambiamento, che quindi questo impedisce un po' di cambiare le cose, spegne un po' gli entusiasmi. Ci raggiungerà in linea il professor Ferruccio Biolcati, professore associato di sociologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Professor Biolcati, la storia di Vera è paradigmatica, rappresenta bene la condizione di tanti giovani ricercatori italiani. Partiamo con una domanda difficile. Quella scelta da Vera è l'unica soluzione possibile, secondo lei? Ma non penso che sia l'unica soluzione possibile, ma sicuramente la più adeguata per quello che è il contesto della ricerca attuale. Vera già durante il suo dottorato si è aperta alle opportunità internazionali e alla fine del percorso era pronta per coglierne di nuove. Se si fosse limitata al contesto italiano si starebbe probabilmente destreggiando tra due scenari, uno più positivo dove riesce a costruire un proprio progetto, ma questo sarebbe un percorso lungo e frammentato, e uno invece più negativo dove rischierebbe di rimanere intrappolata in un limbo fatto di contingenze e incapace di puntare sul proprio sviluppo professionale. Cosa non funziona nel reclutamento di giovani ricercatori nel settore, facciamo un esempio concreto, il vostro, delle scienze sociali? Ma in realtà i problemi principali sono abbastanza condivisi con le altre discipline. Uno dei punti più critici di quella che è stata la riforma Gelmini è stata sicuramente la riforma degli accessi ai ruoli a tempo indeterminato. Una volta c'era il ricercatore a tempo indeterminato, che è stato sostituito da due figure di ricercatore a tempo determinato che vengono chiamate tipo A e tipo B, dove la differenza è che quest'ultimo prevede l'ingresso ai ruoli se si supera un'abilitazione scientifica nazionale alla fine del contratto. Ma in ogni caso è un percorso molto lungo, frammentato, infatti in Parlamento ci sono diverse proposte di riforma. A questo si aggiunge poi quello che è il calo delle risorse, che è un problema dell'università degli ultimi anni, che ha creato un forte collo di bottiglia nell'accesso e che penalizza le leve più giovani, quelle che escono dai dottorati di ricerca. Lei giudica positivamente programmi straordinari come quello sul rientro dei cervelli, tuttavia, lei osserva, non sono sufficienti. Cosa manca alla fine? Ma allora, questi tipi di programmi sono sicuramente utili ai dipartimenti per rinforzarsi. Il problema è che però bisogna garantire le condizioni strutturali perché diventi appetibile lavorare in Italia. Questo vuol dire più finanziamenti nazionali, più supporto amministrativo nella gestione dei progetti di ricerca e anche adeguare gli stipendi. Riprendendo la metafora della fuga dei cervelli, in realtà penso che il problema sia quello di far circolare dei talenti, le competenze, i meriti, le conoscenze, siano essi nazionali o italiani. Grazie, buon lavoro al professor Ferruccio Biolcati. E domanda di rito per Vera Lomazzi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Beh, innanzitutto consiglierei di seguire la propria passione, prepararsi molto e seguire con coraggio i propri sogni. Senz'altro consiglio di fare esperienze multiculturali, ma soprattutto secondo me è importante che ognuno si impegni a costruire le proprie opportunità per essere felice, per crescere nel proprio lavoro, perché alla fine purtroppo la vita è troppo breve per aspettare che le occasioni ci piovano addosso. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una manager per la comunicazione per la Japan Tobacco, sede di Bruxelles, scadenza per il CV dopodomani, richieste informazioni a sonny.gaspar@jti.com. Un analista politico al Center for European Policy di Friburgo, in Germania, scadenza per il CV oggi, info su cep.eu. Infine un professore associato nell'area della genomica cardiovascolare presso l'Università della Finlandia Orientale a Kuopio, scadenza per il CV 30 aprile, info su uf.fi. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi portiamo negli Stati Uniti per parlarvi di una web radio fondata di recente che racconta il mondo degli italiani nella grande mela. Alberto Polo Cretara, fondatore di Radio Nuova York. Radio Nuova York nasce dall'esigenza proprio di cercare di mettere insieme un po' tutti i vari talenti giovani, ambiziosi, italiani che sono arrivati a New York nel corso degli ultimi anni, perché ultimamente ne sono arrivati veramente in parecchi. Io vivo in America da 16 anni e devo dire che c'è stato un esploit degli italiani che sono arrivati soprattutto a New York. Quindi Radio Nuova York nasce con l'intento di mettere tutte queste persone assieme e soprattutto di raccontare quanto talento, quanta professionalità e quanta intelligenza anche italiana ci sia a New York. Che tipo di talenti raccontate? E raccontiamo un po' tutti i talenti, diciamo da quelli là, della musica, gente che fa teatro, anche a professionisti, scienziati, professori universitari, imprenditori che sono venuti qua e soprattutto tanti ragazzi anche che oggi lavorano nel mondo delle start-up, che in Italia faticano a decollare, invece in America sono subito bene accetti e soprattutto sono molto molto interessati a questo fenomeno appunto delle start-up. C'è un identikit tipo degli italiani che scelgono ora New York per emigrare? L'emigrazione è totalmente differente di quella di una volta. Una volta partiva la gente dalle campagne soprattutto, invece adesso qui parte sono quelli dei ragazzi delle città. Sono tutte persone che hanno comunque titoli di studio, laureati, diplomati, gente che già ha fatto anche tanto in Italia e che però in Italia sentiva di non venire ricompensata in maniera adeguata per il loro lavoro e per il loro impegno e quindi hanno deciso di provare la carta dell'America. Una cosa che ti dico subito è che tutti gli italiani che sono passati per la radio, che sono stati intervistati in radio, tutti quanti ad un certo punto dell'intervista arriva la parola meritocrazia. Tutti quanti si lamentano che in Italia non c'è meritocrazia, mentre in America questa cosa è all'ordine del giorno. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.radionuovayork.com. Un motivo per restare o tornare. È il Politecnico di Milano a mettere insieme i migliori piazzamenti nell'ultimo ranking per discipline di QS World University Rankings. Si piazza tra i top 10 al mondo, al settimo posto per design, ottimi risultati anche dalla Bocconi, undicesima in business e management. Si segnalano infine le performance della Sapienza, quattordicesima in archeologia, e dell'Università di Bologna, 32esima sempre in archeologia. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Interactive, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni, anche le vostre denunce. Per mettervi in contatto con noi è molto semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Cerchiamo storie di under 40 espatriati, under 40 controesodati nella penisola dopo diversi anni all'estero, under 40 stranieri al lavoro in Italia e giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, Giovani Talenti allora è la vostra trasmissione e per questo vi invitiamo a candidarvi scrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email insieme ai vostri racconti per partecipare all'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona Pasqua da Sergio Nava.